ogni giorno non è cosa. Si sente sempre in giro una cazzo di storia nuova. C'è troppa gente gelosa, invidiosa, ma me ne foto la minca e mi faccia iosa. Ogni giorno non è cosa. Si sente sempre in giro una cazzo di storia nuova. C'è troppa gente gelosa, invidiosa, ma me ne foto la minca e mi faccia iosa. Mi sveglio stanco, bianco, ancora l'alcol manco, come manchi in Africa. In una scuola un banco salto il pasto, c'ho un incastro, sai lo spasso. Mi prende se rappo sotto la doccia scalo. La media non la doppio io, la triplica sorpasso. C'è chi c'ha più stile, a sto giro io non mi passo. Pensi ai tuoi primi passi, ricordo i tuoi primi incastri. Leggo il tuo futuro senza consultare gli astri. La vita è come un videogame, rimo per finisce il velo. Dritte chi se la scopa tutto lo capisce. Parlate di lealtà ma perché cazzo vi colpisce. Se il vostro migliore un becce è andato sotto per due strisce. E ogni giorno non è cosa. Si sente sempre in giro una cazzo di storia nuova. C'è troppa gente gelosa, invidiosa, ma me ne foto la minca e mi faccia iosa. Ogni giorno non è cosa. Si sente sempre in giro una cazzo di storia nuova. C'è troppa gente gelosa, invidiosa, ma me ne foto la minca e mi faccia iosa. Ogni giorno non è cosa. Si sente sempre in giro una cazzo di storia nuova. C'è troppa gente gelosa, invidiosa, ma me ne foto la minca e mi faccia iosa. Meravigliati, meravigliatevi. È troppo bella vita, patrona, stando comodi. Se tutto va bene, sono giusti i miei calcoli. Sparirete presto, cari MC ridicoli. Ci sono vincoli non di sangue ma di pelle. Se l'istinto è ribelle, vai dalle stelle alle stelle. Fai la fine di suo protagonista di mille novelle. Tutti parlano di te, se ne sentono delle belle. Sono queste le cose per cui lo continuo a fare. Perché so che non c'è nessuno che mi può fermare. Perché c'è ancora chi qualcosa la deve imparare. Come ha chiesto mio figlio, gli ho insegnato a camminare. E ogni giorno non è cosa. Si sente sempre in giro una cazzo di storia nuova. C'è troppa gente gelosa, invidiosa, ma me ne foto la minca e mi faccia iosa. E siete tutti interessati, vestite tutti uguali, parlate tutti uguali, sfigati. E siete tutti impegnati a parlare dei cazzi degli altri, voi poveri scemi sfigati. C'è tempo a tutto, meglio rimanere svegli. Intanto mi sveglio a mezzogiorno con le mani fra i capelli, sapendo che ogni giorno una nuova la puoi sentire. Me ne accendo 10, non c'è niente da capire. Ogni giorno non è cosa. Si sente sempre in giro una cazzo di storia nuova. C'è troppa gente gelosa, invidiosa, ma me ne foto la minca e mi faccia iosa. Ogni giorno non è cosa. Si sente sempre in giro una cazzo di storia nuova. C'è troppa gente gelosa, invidiosa, ma me ne foto la minca e mi faccia iosa. E ogni giorno non è cosa. Si sente sempre in giro una cazzo di storia nuova. C'è troppa gente gelosa, invidiosa, ma me ne foto la minca e mi faccia iosa. E ogni giorno non è cosa. Si sente sempre in giro una cazzo di storia nuova. C'è troppa gente gelosa, invidiosa, ma me ne foto la minca e mi faccia iosa.